Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Noi naturalmente saremo contenti se un domani potranno tornare a fare i ricercatori, a lavorare per la scienza, a lavorare per il miglioramento delle condizioni di vita degli italiani nel nostro paese. Non dipende solo da loro, dipende anche da quello che noi sapremo fare nel nostro paese per risolvere problemi, per creare condizioni favorevoli allo sviluppo della loro attività nelle nostre regioni. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Un omaggio in apertura al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che così ha parlato dalla Germania riferendosi ai nostri cervelli emigrati. Dipende da noi farli tornare, ha esortato il Capo dello Stato. La frase della settimana è copyright di Susanna Camusso, leader CGIL. Stiamo assistendo a una forte e drammatica ripresa dell'emigrazione dalle regioni del Mezzogiorno. Soprattutto assistiamo in questa terra a un aumento vertiginoso di famiglie che dicono che non possono più far studiare i figli, ha affermato la Camusso. Per un'Italia in difficoltà, all'interno dei sempre più stretti confini della penisola, ce n'è un'altra straordinaria che all'estero dimostra tutto il suo valore e le sue potenzialità. Fra tre giorni a Mountain View, a Stati Uniti, è in programma l'Italian Innovation Day, evento che celebrerà i più grandi innovatori italiani in Silicon Valley. E dalla West Coast americana ci trasferiamo a Bruxelles, altro punto di raccolta dei nostri talenti all'estero, per raccontarvi non una ma ben tre storie di giovani che nella capitale devono Europa hanno trovato le meritate opportunità professionali. Direttore responsabile per lo sviluppo del business. Avvocato. Avvocato. Tornerai? Forse un giorno. Non credo. Sì, una volta diventata grande. Sara Carrera, Gianni De Stefano e Teresa Vecchi sono professionisti trentenni al lavoro in Belgio nel settore dell'antitrust. Della loro storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Versione ridotta delle nostre news. Per fare spazio a questa puntata speciale abbiamo scelto di fare un focus tematico su una nazione, la Danimarca, sempre più alla ricerca di giovani qualificati, soprattutto dall'Italia. Perché, come vedremo, nel nord Europa investono sul capitale umano, quello vero. Hanno capito, a differenza del nostro paese, che la formazione e l'educazione fanno la differenza. Iva Optebeck, International Recruitment Consultant a Work in Denmark, ci spiega perché i nostri giovani qualificati sono preziosi per imprese e università danesi, al punto che li vengono a reclutare direttamente qui. I giovani talenti e laureati italiani sono interessanti per le nostre imprese. Avete profili interessanti e i vostri giovani non hanno problemi a trasferirsi all'estero. Siamo spesso stati a Milano e a Roma. Siamo interessati soprattutto ai laureati, poiché possiamo offrire loro posizioni decisamente migliori in Danimarca, all'interno del settore accademico e dei PhD. Noi vediamo il PhD come un vero e proprio lavoro. Ci si può candidare direttamente sul sito web delle università. Ogni mese offriamo 50 posizioni diverse e gli italiani sono molto interessati a venire in Danimarca per il PhD e lavorare qui, vivendo un'esperienza di almeno un biennio. Ma perché la Danimarca ha istituito addirittura un'agenzia per attrarre capitale umano e forza lavoro? Ci sono diverse ragioni per le quali esiste Work in Denmark. Abbiamo iniziato nel 2008, cercando di attrarre professionisti dall'estero. Questo anche per motivi demografici. Tra 5 anni avremo ancora più bisogno di forza lavoro. Per questo il governo ha deciso di mostrare all'estero le opportunità di impiego in Danimarca. Ma non cerchiamo solo talenti all'estero. Facciamo il possibile per trattenere anche i talenti che lavorano già qui. Torniamo a concentrarci sulle offerte di lavoro. Chi può aspirare più in generale a trovare impiego in Danimarca? Andando nello specifico delle offerte di lavoro che pubblicizziamo, al momento cerchiamo profili altamente specializzati, con alcuni anni di esperienza e un buon inglese parlato. Li cerchiamo nei seguenti campi: ingegneri, soprattutto nel settore oil and gas, specialisti informatici, in particolare sviluppatori software, ingegneri chimici junior o senior, infine medici specializzati come i cardiologi. Questi sono i profili che cerchiamo al momento. Infine, Iva Optebeck ci spiega quali servizi accessori forniscono le autorità danesi e lancia un invito a fare rotta verso nord. Work in Denmark fornisce tutti i consigli utili a chi si trasferisce qui per lavoro. Ci possono anche chiamare telefonicamente prima di venire qui. Esiste anche l'International Citizen Service, nel quale 2 giorni alla settimana è possibile trovare fare riunite tutte le agenzie necessarie a svolgere le pratiche burocratiche per l'immigrazione. Tornando a noi, possiamo aiutare anche a trovare lavoro per il partner, così da motivare ulteriormente una permanenza nel paese. Spero che gli italiani continuino ad essere interessati a venire in Scandinavia, in particolare in Danimarca. Non vedo l'ora di vedervi qui, in futuro. Tutte le info necessarie a www.workindenmark.dk. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Bruxelles, capitale d'Europa, città di approdo di giovani di talento che in Italia non hanno trovato le sacrosante opportunità che meritano. Nome: Sara. Gianni. Teresa. Cognome: Carrer. De Stefano. Vecchi. Età: 32. 34. 35 anni. Città di origine: Ceggia. Sasso Marconi. Milano. Studi: laurea in scienze internazionali e diplomatiche. Laurea in legge. Laurea in giurisprudenza. Anno in cui ha lasciato l'Italia: 2001. 2005. 1996. Quale lavoro svolge attualmente? Direttore responsabile per lo sviluppo del business. Avvocato. Avvocato. Dove? A Bruxelles. A Bruxelles. Commissione europea a Bruxelles. Tornerai? Forse un giorno. Non credo. Sì, una volta diventata grande. L'inno europeo per introdurre la nostra puntata speciale da Bruxelles. Bruxelles è una città di sradicati, dove non contano legami familiari o personali o cordate. Questo rende possibile una valutazione più oggettiva sul luogo di lavoro, che tu sia italiano, tedesco o rumeno. Tutto ciò non ha alcuna influenza, conta quello che sei capace di fare. Luca Crocco, così hai presentato a Giovani Talenti l'associazione Antitrust Italia, composta da giovani professionisti italiani al lavoro nella capitale europea. Tra poco spiegheremo cos'è. Prima però spiegaci tu quanto è lontano il mondo del lavoro italiano da quello che avete trovato a Bruxelles. La mia esperienza professionale a Bruxelles è stata assolutamente positiva per facilità di inserimento, responsabilità avute, stabilità e retribuzione. A me sono state offerte delle opportunità, qualche coincidenza fortunata, ma non ho mai dovuto chiedere favori o aspettare pensionamenti altrui per andare avanti. Vista da qui la carriera è una traiettoria più o meno prevedibile, con una crescita più o meno lineare, mentre invece quando torno in Italia ho l'impressione che molti dei miei amici, bravi medici, ingegneri, architetti, si trovino in una situazione professionale incerta. Luca, tra poco torniamo con te, ora però andiamo a raccontare le storie professionali di tre giovani professionisti che fanno parte di Antitrust Italia. Iniziamo da Sara Carrera, 32 anni, una laurea in studi internazionali e diplomatici a Trieste. Perché questa scelta di studi, Sara, e quanto sei rimasta soddisfatta dell'esperienza universitaria? Fin dal liceo l'idea era quella di studiare giurisprudenza, poi invece il mitico libretto "Quale università scegliere" mi ha fatto vedere questa facoltà che mi ha affascinato. Ecco, la tua carriera, Sara, si indirizza subito verso l'estero, l'ufficio di Bruxelles dell'Unione delle Camere di Commercio del Veneto, poi la Commissione Europea, Direzione Salute e Consumatori, ma il primo vero impiego arriva con la European Foundation for Management and Development, sempre a Bruxelles. Quanto è stato facile muovere i primi passi professionali nella capitale europea? È un luogo di opportunità? È un luogo di opportunità, un luogo di merito. Non è stato difficile. Immediatamente dopo il master a Bruges ho trovato lavoro e così la mia carriera non ha mai subito degli spazi vuoti. Alla fine del 2007, dici, ho deciso di tornare in Italia per misurarmi con le dinamiche del mio paese e conoscere da vicino il mondo del lavoro italiano. Cogli un'opportunità nel settore lobbying e comunicazione presso la società Barson Marsteller. Con tua sorpresa però scopri una mentalità diversa in Italia. Qual è stato l'impatto col pianeta Italia? Sono andata da Bruxelles perché avevo il mal d'Italia, volevo tornare in Italia e volevo misurarmi con l'ambiente lavorativo italiano. Non è stato facile perché le opportunità di carriera e di crescita non sono così lineari come Bruxelles o come altri posti a cui ero abituata. Una mentalità un po' più maschilista, una crescita legata più all'età che alle capacità. Sembrava quasi che essere giovane donna volesse dire non essere capace di fare. Un bel handicap, Ma in Italia resti 3 anni, poi nel 2010 riprendi la via di Bruxelles per iniziare un nuovo lavoro come direttore per Europa, Medio Oriente e Africa, sempre a Barson Marsteller. Cosa ti ha fatto dire ok, basta, ora torno a Bruxelles, non ce la facevi più? Le cose sono state diverse. Lavoravo su un dossier internazionale e l'amministratore delegato per la regione EMEA mi ha chiesto di diventare membro del suo team e quindi per questo mi trovo di fronte a una scelta quasi ovvia. Infatti la tua non è stata una vera e propria fuga o un rigetto, perché anche attraverso l'associazione RENA, di cui sei membro, continui a lavorare per il progresso del paese. Quanto può essere fondamentale l'apporto di voi giovani espatriati per rifondare il nostro paese e aprirlo anche un po' all'esterno? Credo sia importantissimo per chi vive all'estero di tenere il legame con il proprio paese d'origine e l'associazionismo è una delle vie. Non credo saremo noi gli agenti del cambiamento, ma quantomeno potremo far sentire la nostra voce in quanto società civile. Mettetecela tutta. L'Italia è un paese attrattivo, Sara? Sì. l'Italia è un paese che la gente ama e deve diventare un paese attraente e attrattivo anche dal punto di vista lavorativo. Parlavo proprio quello, dal punto di vista lavorativo? Non ancora. Gianni De Stefano, 34 anni, la tua è una bella storia che parte dalla provincia bolognese, una storia tutta in salita perché hai investito tantissimo nella tua formazione senza ricevere alcun sostegno economico dallo Stato italiano, nonostante tu e i tuoi genitori abbiate fatto enormi sacrifici per arrivare alla laurea in legge. Gianni, l'Italia è un paese diseguale con l'ascensore sociale bloccato? Sì, in Italia l'ascensore sociale può funzionare ma è più faticoso di 10 piani di scale. Tutti mi dicevano ma perché studi, perché non vai a lavorare? È stato un incubo. Perché? Perché nessuno scommetteva, è triste da dire, una lira sul figlio dell'operaio che diventa avvocato e guadagna tanto, e non per mancanza di fiducia nella persona concreta, ma proprio perché statisticamente non avviene che il figlio dell'operaio diventa avvocato. Anche per te fondamentale è l'esperienza Erasmus a Parigi, poi da laureato comincia a lavorare come praticante avvocato nella sede romana di uno studio legale americano, e è lì che scopri i programmi master all'estero. Ricomincia un'altra avventura, master in diritto europeo al Collegio d'Europa a Bruxelles, poi New York University. L'anno a New York, dici, fu una rivelazione. Quali opportunità hai trovato oltreoceano sia termini di studio che di esperienza lavorativa? Sì, Parigi e soprattutto New York è stata la volta che ho capito che gli anni dell'università sono veramente la chiave del futuro, è la volta che ho capito, per darti una parola, la parola pride, orgoglio per quello che sei, per da dove vieni e per quello che divieni, perché tutti effettivamente hanno le stesse possibilità, prestiti d'onore, quindi soldi dalle banche se passi il test d'ingresso e quindi dimostri di avere capacità, e vi è una sola condizione: essere onesti, altrimenti a casa. Ecco, onesti e non furbi. Onesti della... e non furbi. Tu, a esatto, differenza di Sara, esatto, in Italia non sei più tornato. Dagli Stati Uniti affronti un colloquio con la sede di Bruxelles dello studio Latham & Watkins, dove ti trovi ormai da 7 anni, sei avvocato, sei diventato esperto in materia di antitrust. Come si viene selezionati all'estero, Gianni? Cosa conta di più nell'ascesa di carriera? Primo, rientrare nella categoria di quelli che hanno il più bel curriculum. Secondo, quando fai il colloquio non fare troppo lo spocchioso, ma la persona con cui è piacevole lavorare. Infine, fortuna, naturalmente, la persona giusta al momento giusto. Gianni, tu, come è giusto che avvenga in un qualsiasi paese civilizzato, non fai mistero della tua omosessualità. In Belgio senti di essere assolutamente tutelato sotto il profilo dei diritti civili, e in Italia sarebbe stato lo stesso. Già la tua domanda tutelato rivela la prospettiva differente in Italia, perché in Italia mi ritrovo a dover chiarire che, a prescindere da discussioni morali, matrimonio, adozione, natura sì o natura no, sono un cittadino e pago anche molte tasse. Quindi se una cosa ce l'hai tu, è naturale che ce l'abbia anch'io. Ecco, in Belgio semplicemente non devo chiarire, è normale, sono un cittadino e pago le tasse. Gianni, più in generale, l'Italia è una terra dell'opportunità per un giovane talento al di là della propria estrazione sociale? Lo può essere. La cosa che più mi fa arrabbiare è che sarebbe tutto così semplice. Metti le borse di studio per chi le merita e utilizza la cultura della meritocrazia per ogni riforma. Teresa Vecchi, 35 anni, un'altra storia straordinaria, la tua, 17 anni, ancora liceo classico, prendi e parti, anno di studio all'estero dagli Stati Uniti, esperienza stupenda. Peccato solo che quando torni non trovi nessuno disposto a valorizzarla. Quale lezione sulle dinamiche interne di autoreferenzialità tutte italiane, la tua espressione è meravigliosa, hai dovuto apprendere tuo malgrado? Guarda, ti faccio un esempio fra tutti. Quando sono tornata, la mia esperienza fu guardata con grande sospetto, i professori mi penalizzarono in molti modi e il giorno della mia maturità, me lo ricordo benissimo, uno dei membri della commissione disse che io avevo sprecato un anno in vacanza anziché studiare la tragedia greca, quindi ovviamente più la importante. Cosa non giocò a mio favore al momento del voto. È più importante la tragedia greca, ed è una vera tragedia questo. Teresa, non ti abbatti, prosegui gli studi, scegli legge a Milano, un bel anno anche di Erasmus a Bruxelles, 110 lode di laurea, la tua carriera poi prende il volo, stage alla Commissione Europea di Concorrenza, torni in Italia per lavorare come avvocato in uno studio legale americano. Anche per te, come per Sara, l'impatto di rientro con il paese è stato un po' traumatico? No, a livello personale fui felice di rientrare. A livello professionale, certo, il rientro fu duro, i ritmi lavorativi di uno studio americano sono particolarmente intensi e lunghi. Fai anche un master ad Harvard, poi spicchi il volo, o meglio rientro verso la Commissione Europea di Concorrenza. In due parole, di cosa ti occupi? Di fatto sono l'avvocato della Commissione in materia di diritto alla concorrenza. Due rapide riflessioni. La prima, le opportunità professionali per le donne troppo limitate in Italia e a condizioni troppo dure. Quali differenze tra Europa e Italia? Ma premesso che conciliare un lavoro impegnativo con una vita familiare è difficile in ogni paese, trovo che in Italia lo sia un po' di più. Mi spiego, in Italia i ruoli di comando sono ritagliati sugli uomini, oppure se come donna rinunci alla vocazione materna e di fatto ti comporti come un uomo. Teresa, la seconda sfida cruciale, tu chiedi, all'Italia di formare una generazione di giovani aperta al cambiamento. Quale potenziale libereremmo così? Bisogna sicuramente imparare a mettersi in gioco oltre i nostri confini. Bisogna pensare da europei investendo in borse di studio, programmi di scambio, lo studio delle lingue. E poi dobbiamo essere consapevoli delle nostre capacità, perché io ho lavorato con professionisti di tutto il mondo e quando incontro italiani seri e preparati sono sempre, spesso, i migliori. Domanda di rito in un flash per tutti. Come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Sara. L'Italia è un paese amato soprattutto dagli stranieri. Una proposta concreta è per gli italiani all'estero di farsi ambasciatori del proprio paese e quindi essere positivi e dare un messaggio positivo. Per gli italiani a casa cercare di essere i motori del cambiamento e di attrarre i cervelli stranieri. Il sistema non è più il sistema Italia, è il sistema Europa e domani sarà il sistema mondo. Gianni. Dare possibilità a chi è ancora in Italia con meritocrazia e nel concreto borse di studio, perché se non dai spazio oggi a quelli che sono in Italia oggi, domani ce li ritroviamo all'estero, è un circolo. Teresa. Per me l'Italia è come una persona cara che sta sprecando il suo talento. Una proposta concreta, io condivido l'idea di Renzi, ad esempio, il servizio civile europeo. Tutti i giovani d'Europa dovrebbero fare 6 mesi di servizio civile in un altro paese. La comunità aiuterebbe a capirsi e aprirebbe gli orizzonti. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Sara Carrera, Gianni Di Stefano e Teresa Vecchi, giovani professionisti trentenni esperti di antitrust. Tutti sono a lavoro a Bruxelles, sia come direttori che come avvocati o funzionari europei. Tutti hanno alle spalle importanti esperienze di studio e lavoro all'estero. Tutti condividono l'opinione che le opportunità che hanno trovato oltre confine sono state maggiori rispetto a quelle ottenute in Italia e tutti considerano il bel paese scarsamente attrattivo non solo tra i connazionali all'estero ma anche verso gli stranieri. Tutti, infine, appartengono all'associazione Antitrust Italia, con base a Bruxelles, gruppo nato dalla felice intuizione di Luca Crocco, che ci raggiunge nuovamente in linea. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. Luca, in breve la tua storia prima di raccontare la vostra associazione. Laurea in legge a Siena, 4 anni di lavoro a Milano in 2 grandi studi legali e poi l'espatrio in Belgio per seguire la loro fidanzata. Quella che doveva essere una immigrazione temporanea diventa definitiva. Negli anni aggiunge al tuo curriculum un secondo diploma post laurea in diritto comunitario al Collegio d'Europa, poi comincia a lavorare nello stesso studio legale di Gianni. Luca, perché Bruxelles è per un giovane specializzato in diritto della concorrenza il luogo dove essere oggi? Perché a Bruxelles c'è la Commissione Europea e a 200 km da Bruxelles c'è la Corte di Giustizia a Lussemburgo. La Commissione applica le norme UE a tutela della libera concorrenza tra imprese, sanziona cartelli, abusi di posizione dominante e accordi restrittivi della concorrenza e applica le norme in materia di aiuti di Stato. È un settore affascinante, Bruxelles e Washington ne sono le capitali globali. Essere a Bruxelles è come per chi lavora nella finanza essere a New York o a Londra, succede tutto prima qui, si lavora a fianco con gli avvocati, economisti e funzionari più bravi e quindi anche se la meta finale è l'Italia, per i giuristi, economisti e lobbisti interessati alla regolazione del mercato, Bruxelles è un passaggio indispensabile. E non per metterla da un punto di vista economico, lo facciamo raramente, ma ci vuoi dire quanto sono più alti gli stipendi a Bruxelles rispetto ai vostri colleghi in Italia e a fronte anche di quale costo della vita? Sulla base della mia esperienza personale, la retribuzione degli avvocati e degli economisti che lavorano nel settore è di circa il 40-50% più elevata dei pari grado italiano. Il costo della vita a Bruxelles è paragonabile a quello di Milano, molto meno cara per le abitazioni, forse un po' più cara per alcuni beni di consumo. Diciamo che a Bruxelles una coppia giovane può costruirsi con tranquillità una prospettiva di vita che 15 o 20 anni fa era considerata scontata in Italia, cioè avere un lavoro dove si progredisce, si acquistano responsabilità crescenti, anche la retribuzione cresce, avere un'abitazione di proprietà e contare su buoni servizi per la famiglia e per i figli. Che è la cosa basilare effettivamente. Veniamo ad Antitrust Italia. Luca, l'idea è tua, risale a 6 anni fa ma solo nel 2011 parte, registrando in soli 2 anni un successo strepitoso. Quale tipo di professionisti riunisce Antitrust Italia e qual è il loro identikit? Siamo un gruppo di oltre 150 persone che lavorano nel settore dell'antitrust e della regolazione del mercato in vesti diverse. Ci sono funzionari della commissione, avvocati, economisti, esperti di pubbliche relazioni, lobbisti. Ci trovi ragazzi e ragazze tra i 25 e i 40 anni con una laurea in Italia, un master all'estero oppure uno stage presso la commissione. Conosciamo tutti molto bene l'inglese e anche il francese. L'idea parte da una semplice pizza a Bruxelles. In breve, quali sono le principali attività che organizzate, ma soprattutto quanto è fondamentale il sostegno delle istituzioni e associazioni italiane a Bruxelles? Noi ci vediamo tutti i mesi con un seminario ad ora di pranzo presso la sede di Confindustria di Bruxelles, dove un oratore fa una breve presentazione su un tema caldo e la presentazione è preceduta da un rinfresco dove scambiamo 2 chiacchiere e in sostanza facciamo networking e formazione professionale e diamo a giovani professionisti l'opportunità di parlare in pubblico. Una delle cose più positive di Antitrust Italia è stato il sostegno avuto fin dall'inizio da parte della rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles e da parte di Confindustria. Questo un esempio di due istituzioni che rappresentano l'interesse italiano a Bruxelles, che collaborano con una libera associazione di cittadini in modo diretto, non burocratico e concreto. Voi state impiantando un modello nuovo di networking sano, aperto, trasparente, diverso da quello molto relazionale in Italia. Allora, un'alternativa è possibile? Secondo me un'alternativa è possibile. Domanda flash per Sara, Gianni e Teresa. Guardando i vostri curricula, ma anche ascoltando quello che dice Luca, impressiona la quantità di lauree e master veri e certificati che avete accumulato, ottenendo posizioni importanti di responsabilità. Tutte le statistiche affermano invece che la classe dirigente italiana spesso non arriva neppure alla laurea. Allora, la mia provocazione è: e se facessimo cambio e se portassimo voi qui e mandassimo un po' di questa classe dirigente all'estero, Sara? Credo che ci siano moltissimi talenti e moltissimi italiani qualificati anche nel nostro paese. L'importante è valorizzarli. Gianni? Sì, sono d'accordo con Sara. In Italia ci sono tantissime persone in gamba. La legislazione in materia di università e imprese deve avere in mente questo, per non farsele scappare, magari ritrovarsele su Radio 24 con Sergio Nava fra 10 anni. Teresa? Non credo che gioverebbe all'immagine dell'Italia spedire all'estero i suoi esemplari peggiori. Grazie Sara, grazie Gianni e grazie Teresa. Luca, domanda diritto, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Io direi semplicemente di partire, non dico di partire all'avventura, questo no, è importante avere un piano, domandarsi di cosa abbiamo bisogno in termini di formazione, capacità linguistiche e così via, però una volta accertato che non c'è spazio per le proprie ambizioni, allora prendere coraggio e partire e andare anche all'estero se opportuno. Lei ha una qualche ambizione? Ma... E allora vada via, se ne vada dall'Italia, lasci l'Italia finché è in tempo. Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse? E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via. E lei allora, professore, perché rimane? Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi proseguiamo la nostra inchiesta fra le nuove testate di informazione italiana all'estero, testate spesso online che raccontano i giovani espatriati. Una delle più nuove e interessanti riviste web è il MIT, che nasce e si sviluppa in una delle capitali mecca per i nostri talenti, Berlino. Il direttore Valerio Bassan. Il MIT nasce a marzo del 2012, quando io e la mia fidanzata Elena Brenna ci siamo trasferiti dalla Brianza, dalla fredda, gelida e triste Brianza a Berlino, con appunto il sogno nel cassetto di formare questo nuovo giornale che si rivolgesse appunto alla comunità italiana della capitale tedesca, che avevamo notato essere molto molto ampia e sempre in grande crescita, e allo stesso tempo però abbiamo notato come mancasse effettivamente un organo di informazione in grado di raccontare la città tedesca in italiano. Cosa raccontate in il MIT? Partiamo sia dalla cronaca e dalla politica, quindi degli ambiti abbastanza canonici del giornalismo tradizionali, ma ampliamo chiaramente lo sguardo sia alla comunità italiana, quindi alle varie iniziative e alle varie presenze italiane che ci sono nella città, sia anche chiaramente a tutti gli eventi che Berlino offre alle persone che vi risiedono, a quelle che si vorrebbero trasferire. Qual è questa comunità di lettori che avete a Berlino? Sono giovani, qualificati, laureati? Chiaramente col fatto di essere online raggiungiamo un pubblico più giovane, qualificato sicuramente, come è qualificata tutta l'immigrazione berlinese, molto più qualificata rispetto a quella che c'è in altre città della Germania. Soprattutto è un pubblico molto molto eterogeneo, quindi che arriva dal nord al sud Italia, che ha una formazione di tipo informatico, di tipo artistico, che ha una formazione di tipo comunicativo. Perché sono venuti a Berlino? Credo che tra le varie motivazioni, che poi sicuramente dipendono da persona a persona, ci sia una sorta di malcontento di fondo verso l'Italia, che è quello che sta alla base della maggior parte delle migrazioni moderne, sicuramente. E Berlino attrae moltissimo. Se arrivi a Berlino con un progetto in testa, effettivamente rispetto alle grandi città italiane, lì forse puoi veramente realizzarlo. Ricevete molte richieste dall'Italia per capire come venire a Berlino? Sì, ne riceviamo abbastanza. Chiaramente non riusciamo purtroppo a rispondere a tutti. Noto che c'è proprio un grande interesse, effettivamente sta crescendo ancora di più. Ogni giorno, veramente ogni giorno, tocchiamo con mano una migrazione italiana sempre crescente. Ho conosciuto veramente tanti italiani che gli chiedi quando sei arrivato, 2 giorni fa, 3 giorni fa, 1 settimana fa. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.ilmitte.com. Un motivo per restare. o tornare. L'Università di Sassari ha indetto un bando per il reclutamento di 7 ricercatori a tempo determinato ad assumere per 3 anni grazie ai fondi della legge regionale denominata Rientro Cervelli. Sono stati ammessi alla selezione candidati italiani o stranieri che siano stabilmente impegnati all'estero da almeno 3 anni in attività di ricerca presso istituzioni universitarie o enti pubblici o privati. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.isole24ore.com/blog/nava. Fino a giugno è aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa della settimana è Zero titoli. Zero titoli. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internactive, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione è classe dirigente zero titoli non qualificata in Italia e classe dirigente altamente qualificata all'estero con lauree e master importanti ma spesso obbligata ad andarsene per mancanza di opportunità nella penisola. Non è questo il vero drammatico paradosso italiano? Come rimediare? Come riportare al timone del paese professionisti e talenti con i titoli e le competenze giuste facendoli rientrare dall'estero? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scrivete già giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.